cioè non basta più il lui, necessita anche l'apporto della storia del figurato. Cioè, molte volte sul piano della riflessione teologica noi abbiamo delle punte di teologia che poi verranno riprese secoli più tardi, e la documentazione iconografica, la documentazione iconologica che ci permette di capire il pensiero reale della Chiesa, e quando parlo di pensiero reale intendo dire della vita della Chiesa lungo il tempo. Ecco, una teologia allora sistematizzata, una teologia che si possa veramente individuare nel tempo e nel luogo, un cammino autentico di crescita della Chiesa. In questo, io credo, il contributo della iconografia è quanto mai decisivo. Accanto allora alla collezione della patrologia latina e greca, io ritengo che è necessario il corpus figurativo, proprio perché si possa interpretare meglio la stessa parola, perché la parola è possibile ed è atta a ricevere molteplici interpretazioni. Non c'è dubbio che l'immagine fissa la interpretazione, e quindi ritengo quanto mai metodologicamente importante iniziare. Quindi ritengo allora necessario, proprio sotto l'aspetto di una metodologia moderna, soprattutto anche per un umanesimo moderno che ritengo che possa avere forza soprattutto come scienza storica. Un'altra distinzione che mi sembra necessaria anche dopo che quello che ho ascoltato ieri come domande è questo: da non confondere la iconografia con le icone. La iconografia è lo studio praticamente della figurativa cristiana. L'icone è già un momento speciale della iconografia dove diviene oggetto di culto. Quindi quando noi parliamo di iconografia assolutamente non andiamo dritto dritto all'icone come tale, perché è un capitolo molto piccolo all'interno della storia proprio della figurativa cristiana. Di lì le domande che sono state poste ieri al professore, e quindi molte volte una teologia forzata o soprattutto un neoplatonismo, una contemplazione o un devozionismo forzato, dove in effetti per noi è la comprensione del figurativo come lettura di civiltà teologica, liturgica e vorrei dire anche sociale, politica della Chiesa. Ora, con questa un po' introduzione, penso di poter dare, se mi è possibile, se mi riesce, tre esempi di, diciamo, di lettura iconografica e quindi anche iconologica di monumenti. Il primo monumento che vorrei un po' esaminare è proprio l'arco trionfale di Santa Maria Maggiore, quindi prima del concilio in seno secondo. Sul concilio, sulla figurativa del concilio Niceno II, probabilmente e proprio per mancanza di tempo, dirò piuttosto che cosa hanno detto i padri nel concilio stesso, sotto l'aspetto proprio teologico e dei rapporti filosofici che vengono a nascere all'interno della dialettica e della diciamo polemica che si viene a creare. Se avrò del tempo forse anche farò qualche diapositiva proprio su alcuni monumenti. E il terzo, ecco fatto subito un esempio dopo il concilio tridentino, ed è l'ospitale della Caridad a Siviglia, e quindi se volete uno schema veloce, il primo sarà un esempio di teologia ecclesiale, il secondo sarà un esempio di figurativa teofanica e predominante, si capisce, e terzo un esempio di figurativa sociale. È chiaro che i luoghi che ho scelto sono stati fatti positivamente: Roma, Oriente e Occidente, qual è la Spagna, distribuiteli anche nell'epoca, quindi con IV secolo e poi VIII, IX secolo e dopo il XVII secolo, il che significa che c'è un cammino all'interno della Chiesa dove sono necessarie avere delle premesse di carattere estremamente storico, teologico e ecclesiale. Non si possono assolutamente mettere uno accanto all'altro come se si dovessero paragonare, ma invece vanno viste come tappe di cammino della Chiesa che va appunto nella storia. Ora, ecco, il primo esempio che desidero un po' loro presentare è proprio l'arco trionfale di Santa Maria Maggiore. Per l'arco trionfale di Santa Maria Maggiore è già il concetto di arco trionfale, il che significa che ci troviamo in una iconografia trionfale. L'arco porta la iscrizione Titus Episcopus Plebi Dei, il che sembra, mi dà la impressione, che l'arco non è assolutamente dedicato a Maria. Titus, no? Vescovo al popolo di Dio. Quindi, da quella iscrizione, noi abbiamo ben chiaro l'idea che si tratta di un arco ecclesiologico. Potremmo adesso esaminare le diverse immagini in una lettura veloce. A sinistra noi abbiamo l'annuncio dell'angelo a Maria. In questo annuncio dell'angelo a Maria vediamo subito che Maria è presentata come basilissa, quindi molto lontana dalla ragazza di Nazareth, umile. Evidentemente ci troviamo nel simbolo. Ora, io tengo a dire che nel tardo antico, perché noi ci troviamo nel tardo antico, la lettura simbolica è una lettura necessaria. La parola letteraria serve solamente per nascondere una luce ancora più forte. La verità nascosta è molto più grande di quella visibile. Se noi non entriamo in queste categorie mentali, è difficile comprendere tutto il tardo antico. Ed ecco allora che si può comprendere il ripetersi dei padri, sicut Maria, sicut Ecclesia. Cioè, tutto ciò che è stato detto di Maria è detto della Chiesa. Ecco che la Vergine, la Basilissa, interessante anche in particolare, probabilmente dopo potremo vedere, sta lavorando e qui c'è in mano tutta la teologia dei padri, proprio sul monachesimo anche che viene, perché la Chiesa opera, il monaco va nel deserto, lavora, e poi il frutto del suo lavoro lo presenta e lo porta in città, questo è Caparelli che ne ha fatto degli studi, lo porta in città e vende a meno prezzo ai poveri, quindi praticamente è a servizio sociale. Comunque è una chiesa che opera. Ecco lo Spirito Santo, la colomba che scende, pensate adesso in questi grandi agganci l'uno con l'altro, e accanto noi ci troviamo con un altro annuncio, e l'annuncio a Giuseppe. La sinopia, cioè quando all'inizio del secolo è stato staccato il mosaico per restauri, si è visto che l'angelo che va ad annunziare a Giuseppe era in volo come a Maria. Evidentemente, per motivi d'arte, è stato messo il rito a livello frontale. Questo è interessante perché ci permette di comprendere come questo mosaico è stato creato positivamente. È un mosaico gestito, è un mosaico voluto con delle idee molto chiare e molto precise. Io sono convinto che il mosaico viene piuttosto da ispirazione e da cultura alessandrina. Io penso che Alessandria è il serbatoio di Roma, come Antiochia è il serbatoio di Bisanzia. Quindi, a parte adesso gli storici d'arte, di arte formale che intendono far venire da mosaicisti o da dipendente costantinopolitane, cose delle quali io dubito molto per tanti motivi di carattere storico, ma a parte tutto questo, io ritengo tutto sommato che è stato fatto proprio qui a Roma in una maniera, vorrei dire, dove la gestione culturale è molto evidente e molto chiara. Saltiamo la figura centrale, la riprenderemo più tardi, E ci troviamo poi sulla destra con la presentazione di Gesù bambino al Tempio. Per favore, puoi fare un po' di diapositive? Sì. Vediamo un po', forse possiamo essere quelle... Andiamo avanti, ecco, esiste che tutto il lei copre un po' i piedi, poi si vedrà, andiamo avanti. Ecco, nella presentazione di Gesù bambino al Tempio, ecco che la figura di Anna, quella oscura, che è anche di carattere simbolico, ed è immesso dentro la Vergine presenta sé e tutto sommato anche la figura di Giuseppe. Ci tengo a dire che le scene dedicate a Giuseppe sono come numero identiche a quelle dedicate a Maria. E quando qui compare Giuseppe non è mai figura secondaria. Egli è qui ponte tra la sinagoga e la Vergine con il bambino. Ne vedremo poi i motivi di lettura. In fondo, ed è poi stato restaurato nella fine del 500, inizio del 600, c'è Giuseppe che viene svegliato dall'angelo dove dice di fuggire. Quindi è già la seconda scena dedicata esclusivamente a Giuseppe. A sinistra, in basso, c'è quell'unicum iconografico che gli può dare proprio dell'adorazione dei magi. E sulla destra loro vedono, purtroppo non abbiamo, ci dobbiamo un po', e se ne è stata bene, ecco sì, è sufficiente, e qua abbiamo la famosa adorazione dei magi, e dall'altra parte Afrodite va incontro alla Sacra Famiglia. Ebbene, sono due scene di presentazione. Noi ci dobbiamo rifare un po' al concilio di Efeso, dove tutto sommato non possiamo dimenticare la ecclesiologia, dove la chiesa di Antiochia è rimasta offesa dalla chiesa alessandrina. Ed ecco che ci sono praticamente due immagini che si riferiscono una alla chiesa proprio alla chiesa antiochena, perché per i padri e nella letteratura contemporanea i magi vengono da Antiochia. Nella parte opposta, Afrodisio che va incontro alla Sacra Famiglia, questo apocrifo ci dà esattamente l'Egitto. Quindi sono due adorazioni del Verbo di Dio che vengono da due territori. E ci tengo anche a dire che il Papa Celestino I dichiara gli apocrifi non presentabili, non rappresentabili in immagini. Quindi vengono tutti. Come mai il successore la riprende? C'è un grande punto interrogativo. D'altronde, anche come immagine globale, noi le vediamo collocate proprio al centro di tutta la raffigurazione. Certamente a sinistra non è l'immagine di Giuseppe che si vede, e dall'altra parte ancora è Giuseppe che protegge la Sacra Famiglia. In basso noi abbiamo la strage degli innocenti e poi le città di Gerusalemme e di Betlemme. Ebbene, una delle letture più evidenti dei padri nel IV-V secolo, proprio in tutto il territorio ecclesiale, praticamente da Antiochia a Roma, a Torino, a Ravenna, tutti si assicurano che Giuseppe è immagine del Vescovo. Io questo ho già pubblicato, quindi mi sembra inutile stare a leggere un po' tutti i testi in merito. Quindi, praticamente, se la Vergine è simbolo di Maria, non c'è dubbio per la letteratura contemporanea che Giuseppe è l'immagine del Vescovo. E allora come dovrebbe essere il Vescovo? Ci sono tutte le caratteristiche allora e le virtù del Vescovo. Se questo le leggessero un po', le riassumo dicendo che praticamente dalla letteratura risulta chiaro che Giuseppe è il testimone e custode della verginità di Maria. Ecco la prima caratteristica. È il testimone e il custode della verginità. Giuseppe, inoltre, e lo sposo vergine di Maria. Basta anche leggere il Conto Elvidio di Gerolamo, dove dice che la sua verginità è più che mai riuscita per essere proprio lo sposo castissimo di Maria. Inoltre, Giuseppe è il padre, lo metto tra virgolette, umano del Cristo. E qui si comprende come la figura di Giuseppe, quindi del Vescovo, è colui che in effetti testimona della Chiesa che genera nella verginità. È colui il quale di fronte alla legge si erge in maniera forte per difenderla. È colui che è chiamato alla pace. Giuseppe quindi viene ad essere in un certo senso un elemento importante perché è il tipo proprio dei vescovi e dei sacerdoti. Se tutti episcopi plebidei probabilmente può dare l'idea e l'immagine propria di Cristo come realtà simbolica. Ma c'è qualche cosa ancora di più che noi dovremmo probabilmente vedere all'interno della Chiesa. Io non credo che l'arco trionfale sia stato fatto alla Chiesa, sì, senza dubbio, per il Concilio, ma l'arco trionfale io lo ritengo che è un arco che dice la ritrovata pace della Chiesa. Perché tutta la politica di Cristo, nelle tre lettere che noi possediamo di lui, c'è sempre il riferimento alla pacificazione. Scrive al Vescovo di Efeso, nel Concilio, quello che importa al Papa non è altro se non che si riconosca il primato di Pietro, e tutto questo lo fa attraverso il Vescovo, il Patriarca di Alessandria. Papa Celestino designa per il Concilio di Efeso come suoi legati i due vescovi Arcadio, Progetto, e il prete romano Filippo. Nel commentarium rimesso all'ambasciata viene affidata la missione di far rispettare la Santa Sede. Auctoritatem sedis apostolice custodire dovere mandamo. Idem et instructiones, que vobis trage sunt, hoc loquantur ut interesse conventi de beatis, ad disceptationem sicuerit ventum vos deorum sententis giudicare debebitis non subire certamen. Il 10 luglio 1431 Filippo presenta a Nicea la lettera del Papa che apporta sul piano teologico pochi elementi nuovi, perché sul piano teologico è tutto affidato a Cirillo, e Cirillo, quando sono assenti i delegati pontifici, fa come se fosse lui. Nel momento nel quale arrivano i delegati, allora si riconosce tutto questo. Il sinodo però vi dà grande importanza e saluta con acclamazioni, questa volta si rivolgono a Celestino come il nuovo Paolo, custode della fede. Il Concilio ritrova tutta l'importanza della procedura romana. Firmo di Cesarea dichiara dall'inizio della seduta che Celestino ha formulato la regola, una sentenza apostolica nella lettera che comunicava la sentenza romana a Cirillo, a Rufo, a Costantinopoli e ad Antiochia. Nestorio si è ribellato, il Concilio adotta il giudizio romano, la prassi romana. L'11 luglio del 431 Filippo fa sentire con autorità la voce di Roma. I legati fanno dare lettura degli atti di come si erano svolti il Concilio per confermare che la procedura era stata organizzata canonicamente. Quindi il sacerdote Filippo canta proprio il piano del primato romano. Nessuno può dubitare che Pietro, princeps, caput apostolorum, ex arcos cae cefale, che ha ricevuto le chiavi del regno e il potere di legare e di sciogliere. La pericope di Matteo si applicava al vescovo romano, al vicario dell'apostolo, che ha mandato i suoi legati al sinodo convocato dai principi cristianissimi. Dopo l'elogio della fede imperiale, Filippo proclama, su questo preambolo solenne la condanna di Nestorio nell'unità dell'Occidente e dell'Oriente. Ora, in questo programma iconografico, ecco in alto, noi troviamo proprio la presentazione da parte di Pietro e Paolo di tutta la Chiesa. Se possiamo dare l'immagine dell'etimasia, il Signore che verrà nella gloria. Allora ecco che l'arco è diviso in due parti fondamentali. Sì, il ciclo della vita di Cristo, dell'infanzia di Cristo, però con queste letture simboliche. Ed ecco alla fine, ecco Pietro e Paolo che presenta al Signore che viene nella gloria, la Chiesa. Ed è importante perché, in effetti, Roma chiede e manifesta il suo primato per la presenza proprio di Pietro e Paolo, quindi le due chiese, ex la Chiesa dei Gentili e la Chiesa della Circoncisione. È tutto un discorso, allora, veramente, che ci fa capire in un certo senso come la succursale Costantinopoli, che era nato come succursale politica per Roma, avanza delle pretese anche sul piano strettamente della vita ecclesiale. Ora, io non vorrei andare più oltre perché il tempo corre. Comunque, a me sembra che questo arco trionfale è da datare 2 o 3 anni dopo il Concilio e che si possa, in un certo senso, pensare appunto come l'arco della ritrovata pace all'interno della Chiesa una volta che si è pacificato Giovanni con Cirillo di Alessandria, e questo per opera proprio del Papa Sisto. Nonostante il comportamento che ha avuto aggressivo di Cirillo di Alessandria, perché tutto sommato si vedeva anche scavalcare dal patriarca di Costantinopoli, perché non si vedeva più nella seconda sede, ma attraverso questo discorso del succursale si vedeva avanzare come posto. Bene, questo un po' per dire come avvengono certe letture, o perlomeno certi fatti, proprio prima del Concilio Niceno II. Per il Concilio Niceno II, ci tengo un po' anche a dire che non sono entrato in merito alla storia materiale e formale dell'opera, sono delle letture necessarie anche queste, ma appunto dovendo andare un po' velocemente per dare queste idee flash, preferisco non entrare, ma le sto fintendo. Quindi parlare dei restauri che sono stati fatti, delle diverse scuole, eccetera. Mi sembra importante cogliere quelle idee un po' centrali. Ora, per il Concilio Niceno II, ecco, penso che convenga tutto sommato, sotto l'aspetto proprio della cultura dell'epoca, tener presente un po' l'Oriente, un Oriente che a Costantinopoli vive più che mai quello che ha scritto in diversi volumi l'unità euroasiatica, il professor Tucci. Una unità culturale che è molto più vivibile nel senso di comprensione proprio per questo territorio dell'Oriente europeo. Ora, il concetto proprio neoplatonico, il concetto proprio del divino è così in un certo senso diverso dalle acquisizioni della cultura romana. Ma al Concilio di Nicea, dopo tutte quelle premesse che sono state fatte ieri e quindi sempre nella Chiesa della compresenza dei due partiti, di coloro i quali ritengono l'immagine valevole per il culto e di coloro i quali ritengono che in effetti sia un affronto alla divinità, e in questo mi pare che bisogna dire che la scuola alessandrina, sì, è vero che per il figurativo era contrario come linea di massima, ma i suoi attacchi principali sono proprio contro le statue, in effetti, proprio è la statua quella che permetteva la deviazione dei costumi. Quando si leggono e si legge il pedagogo è così evidente, è così chiaro, quindi sì, è vero sul figurativo, ma in effetti è proprio la scultura quella che viene particolarmente colpita, e difatti diciamo nell'arte religiosa, nell'arte cristiana dei primi tempi, non viene a svilupparsi in una maniera, cioè non trova una vera e propria consonanza con la Chiesa. Ebbene, il Concilio Niceno II, in effetti, viene detto con molta chiarezza che l'icona non è altro che legno, cera e colori mescolati. Se volete il testo, è Manzi 13, 274a. Quindi è una testimonianza del costante uso a Bisanzio, nell'VIII secolo, della pittura ad encausto, ma è vero altresì che essa non sa che riprodurre il suo archetipo. Testo base a Nicea in questo senso è il famoso patto di Basilio, e cioè che il rispetto attribuito all'icona si innalza verso il prototipo, al quale i padri, sulla traccia di Giovanni Damasceno, i cui scritti trapelano in continuazione tra le pieghe del Concilio di Nicea, danno un'interpretazione assai lata. All'inizio di questo rapporto, il quale fa dell'icona un mezzo e non un fine, il pensiero di Cirillo d'Alessandria, al quale attinse Giovanni Damasceno. Afferma Cirillo nella sua locuzione all'imperatore Teodosio: le immagini sono come gli archetipi, è necessario quindi che esse siano così e in nessun altro modo. Ecco come nasce la storia dell'arte bizantina. Anche se sul piano figurativo continuerà il tardo antico, ecco la ripetizione, ma vedremo forse un concetto che gli ripete nel De Thesauris: le icone devono sempre conservare la somiglianza con l'archetipo. E infine, ciò che ci interessa nel De Abraham e Melchisedec, è detto: troviamo essere assolutamente necessario che l'immagine venga dipinta dagli archetipi. La differenza tra Oriente e Occidente, anche se poi sul piano figurativo si continuerà, ma si devono esaminare caso per caso, bisogna vedere monumento per monumento, opera per opera. Quindi adesso sono piuttosto idee dentro le quali si muove un certo mondo. L'esempio concreto scelto dai padri Niceni al proposito, cioè cui del resto erano già ricorsi sulla traccia di Basilio altri padri della Chiesa e diffusamente l'autore del Adventus Constantinum Caballinum, Adventus Constantinum Caballinum, è l'immagine dell'imperatore. Se dipingendo un ritratto di un uomo qualsiasi, il pittore non ne dipinge né l'anima né la sostanza, rimane pur sempre valido il fatto che quelle caratteristiche delle membra che il pittore ritrae adombrano l'anima e la sostanza. L'icona mostra, cioè, la mimesi del prototipo. Sicché è proprio attraverso dette caratteristiche che possiamo riconoscere il prototipo. Il pittore e il committente sono allora pienamente giustificati, poiché è l'immagine stessa dipinta che riscatta la materia, non identificandosi, peraltro, per nulla con la materia. Tuttavia, il colore, morfologicamente circoscritto e circoscrivente, non basta. Per la piena caratterizzazione della figura si rende necessaria anche la presenza del nome. Voi troverete sempre il nome accanto. Mentre in Occidente è il nome per ricordare quasi, per fare catechesi, per non far dimenticare chi è, qui è necessario per la identificazione stessa del prototipo. Il quale nome non è affatto un'arbitraria scelta del pittore o un puro frutto della sua fantasia, ma corrisponde ad una istanza dell'immagine stessa, che immagine del prototipo di cui porta il nome e di nessun altro prototipo. L'immagine non ha sede nel prototipo per mezzo delle sostanze, ma soltanto per mezzo del nome e della disposizione degli elementi che la caratterizzano. Risulta quindi che per gli iconodoli, il nome è avvinto a filo doppio, e all'immagine e al prototipo. Il che spiega per quale ragione nella pittura bizantina, sia essa iconica in senso stretto oppure raffiguri e storie iconizzate in senso lato, ciascuna figura porti accanto a sé il proprio nome. Questa anche nelle varie scene, a meno che nel secondo caso non venga assegnato schematicamente soltanto il titolo, ritenuto sufficiente per definire i vari personaggi che compaiono nell'episodio raffigurante. Il secondo argomento basilare adottato a Nicea in favore delle immagini è costituito dall'equazione tra parola e immagine, con la netta tendenza a considerare la seconda superiore alla prima, una tendenza. Il problema viene discusso al solito non in forma rigorosa e con un ordine coerente, ma affiora dalla lettura di alcuni testi, da commenti più o meno brevi dei padri, volti comunque tutti a confutare la politica affermazione delle Blacherne già esaminata e che si riassume nella dichiarazione che dall'udito deriva la fede e dal verbo e la fede dal verbo di Dio. Dei due sensi, udito e vista, gli iconomati ritenevano valido in campo soteriologico soltanto l'udito, atto ad accogliere appunto la parola di Dio e dei testi sacri, denigrando totalmente la vista come ricettatrice di immagini dipinte contraria ai dogmi della fede. Dai padri niceni i due sensi vengono invece posti sul medesimo piano, per cui essi contrappongono alla dogmatica asserzione suscitata una serie di passi biblici, tra i quali il Salmo 47 di Davide, come abbiamo visto, allo stesso modo abbiamo udito. Udito e vista operano cioè d'accordo, la prima attraverso l'accoglimento della parola, la seconda attraverso la recessione della natiposi iconica, in modo che per mezzo di due azioni, le quali vengono di pari passo, si raggiunge un'unica conoscenza. Quindi i pittori non contraddicono le scritture, ma quello che dice la scrittura essi dimostrano. Questa equiparazione, sulla quale aveva già insistito Giovanni Damasceno, pur diventando soltanto a Niceno uno degli argomenti più validi per la difesa delle immagini, apparteneva anch'esso alla tradizione della Chiesa, come attesta lo stesso monaco di Damasco, allorché, a conforto delle sue asserzioni, cita un passo di San Basilio secondo il quale la parola giunge all'orecchio e la pittura, tacendo, mostra la medesima cosa. Nonché i versi di un Carme di Gregorio Nazianzeno, nel quale si sostiene che l'insegnamento del pittore è considerato più valido di un sermone. In base a quest'ultima testimonianza, il Damasceno giunge alla conclusione che il pittore è colui che insegna, cioè insegna nel grado più alto. Perciò c'è quel passo famoso di Damasceno: se qualcuno viene a te e chiede la tua fede, qual è la tua fede, tu non dir nulla, portalo in chiesa e lì davanti alle sacre immagini spiega la tua fede. Si comprende allora perché Nicea, quando si cita il celeberrimo passo di Gregorio da Nissa, il quale si commuove e piange dinanzi alla raffigurazione del sacrificio di Sacco, dispiegato dall'altare davanti ai suoi occhi, e Basilio, vescovo di Ancira, un vescovo critico d'arte, il primo testo di critica d'arte che noi abbiamo con il vescovo di Ancira, il vescovo Basilio di Ankara, si alzi immediatamente osservando che più e più volte Gregorio aveva letto la medesima storia, ma mai aveva pianto. Pianse soltanto vedendo la pittura. E sarebbe interessante leggere proprio da parte il testo di Basilio, vescovo di Ankara di Antiro, proprio quando descrive il martirio di questa Marte, dove dice: a un certo momento io ho visto proprio sgorgare, mi dava la sensazione di vedere proprio sgorgare il sangue e non ho retto più. E sempre in seno al Concilio, parlando di una raffigurazione della Vergine Annunciata, si sottolinea il fatto che la visione della pittura rende comprensibile con efficacia ben maggiore della lettura del brano evangelico l'effettuarsi del mistero. Perché allora, chiedono i padri, si devono condannare i pittori? La medesima condanna dovrebbe essere stessa anche coloro che scrivono gli Vangeli. Tanto più che i sinodi hanno sempre concesso nelle chiese e negli evangeli la pittura figurata. Quindi è questo, mi pare di capire, a Nicea, uno degli argomenti importanti, cioè la identità immagine-parola o immagine-scrittura, quest'ultima naturalmente intesa come la fonte della parola. L'intenzione c'è di giustificare accanto all'icona circoscrivente la singola figura anche tutta la pittura sacra figurata e nelle chiese, nei codici, che si esplicava come un discorso ora più semplice, ora più complesso, da cogliere visivamente, discorso nel quale si concatenavano le immagini e le parole. Ora, nel Concilio Niceno II, a me sembra che di poter cogliere anche lo statuto del pittore, cioè il pittore che viene fuori dal Concilio Niceno II. Ecco, sia pure per inciso, chiaro, negli Acta viene detto questo, che mi sembra dichiarato con molta, chiarezza. L'invenzione e la creazione non è dei pittori. È un canone questo che rimarrà nella Chiesa bizantina. Ma dalla stabile legislazione e tradizione della Chiesa cattolica e ossequio all'antichità, una bella virgola nel testo greco, secondo il divino Basilio. E Basilio dice questo nel De Spiritu Sancto ad Amphilochium. L'antichità stessa delle opere lo dimostra, come pure l'insegnamento dei nostri padri, ripieni dello Spirito, le quali, vedendo le iconi nelle sacre chiese, le accolsero e loro stessi, dedicando le sacre chiese, curarono che vi fossero apposte. Dunque, il concetto e la tradizione è loro e non del pittore. Del pittore è soltanto l'arte, ma la disposizione di programmi iconografici anche spetta ai santi padri che dedicarono la Chiesa. E questo è uno dei canoni fondamentali. Pensate che, tutto sommato, quando si parla proprio di questo elemento, di questo fatto, che l'invenzione e la creazione non è dei pittori, i padri attribuiscono proprio a loro l'immagine come tale, come deve essere fatta, proprio perché c'è in gioco il proposito, c'è proprio in gioco la dottrina stessa. All'artista che cosa viene data? Solamente quel saper fare materiale? No, c'è la saggezza, l'intelligenza e la perizia del fare. E quell'episodio che ieri è stato più volte presentato, e cioè dell'arca, che viene citato nei documenti, a me sembra che la si possa leggere proprio nella chiave di tutta la documentazione degli Acta, dove in effetti il riferimento a Mosè, che portavoce davanti all'artista di come deve essere fatta l'arca, entra nella pienezza della interpretazione che è la Chiesa, in effetti, che è tramite davanti a Dio di come deve avvenire l'immagine santa. Sarebbe interessante proprio prendere il testo biblico e poterlo commentare, per cui si danno le misure esatte, si determina bene anche l'arca, gli angeli come devono essere fatti, si dà le misure delle loro ali. Cioè tutto questo riferimento ha e deve avere, secondo me, una interpretazione globale all'interno stesso proprio della filosofia di quello che si sono detti nel Concilio. Diversamente è solamente una esplicazione esterna di un'arca che viene rappresentata. Per me dice proprio la equazione proprio di Chiesa tramite tra Dio e l'opera che viene raffigurata. Come si fa? Devo un po' concludere questa parte. Bene, questo mi stupisce che dopo il Concilio Niceno II non soltanto le icone di Cristo, ma anche quelle della Vergine, degli angeli, dei santi, mantengono attraverso i secoli una iconografia pressoché immutata, che si estende anche alle scene evangeliche, codificando quel fluttuale di temi caratteristico, come giustamente osservava già da tempo il Bill, del periodo pre-iconoclasta. Naturalmente la canonizzazione non fu immediata. Il problema si andò formulando lentamente, favorito da quel clima culturale religioso pienamente assimilato dallo Stato ed espressione dello Stato, per cui anche questi rapporti con l'iconografia del Cristo, pantocratore, dove si dice sempre il Cristo pantocratore, ma ci sono le letture del Cristo pantocratore, perché una cosa è il Cristo pantocratore che sta nella cupola, perché viene di fatto poi adesso a predominare la Chiesa centrale con cupola, dove noi abbiamo veramente colui che è l'omnipotens, no? Colui il quale ha creato, colui che tiene tutto, è diverso dal Cristo pantocratore che si trova in una deesi dove è l'amico degli uomini. Quindi ci sono delle letture che vengono dalla situazione proprio del luogo dove in Chiesa viene messo. È una lettura che viene collocata con i cicli, e qui man mano, ecco, nell'arte bizantina, perlomeno dell'undicesimo secolo, si va perdendo, se così possiamo dire, la lettura delle scene in quanto episodi, ma invece lettura di scene in quanto partecipi di una liturgia e quindi essenzialmente legate al mistero epifanico. Ebbene, non so, una parola stessa anche per la Vergine. Sì, è presentata come la Theotokos, avendo il Cristo nelle sue diverse anche realtà di lettura, ma essenzialmente sono due: da una parte la Theotokos, dall'altra la Intercessora, con le mani rivolte verso il Cristo perché colui che gli è di fronte possa ottenere la vita eterna. Quindi la classica con Giovanni il Battista, con le diverse posizioni, da quella estremamente liturgico come è nata nell'area absidale, poi va sull'iconostasi e poi man mano avanza fino ad arrivare anche in Occidente sulle facciate francesi, dove si perde il Giovanni Battista, diventa un Giovanni evangelista, la Madonna non è più la Madre di Dio e la Vergine, dall'alto l'Apostolo Vergine, i due intercessori Vergini, e quindi viene fuori tutta una evoluzione. Ed è stupendo anche il calice che ieri ha presentato il nostro caro professore, dove in effetti c'è il Cristo, no? Con la Vergine e Giovanni il Battista. E in effetti, nata proprio come fatto nell'area presbiterale, come preghiera liturgica per ottenere la vita eterna, non c'è nessunissima, anzi è ovvio che faccia parte proprio della iconografia di un vaso sacro. che io ho presente davanti a me, persino un battistero ritenuto del XII-XIII secolo, io ci dubito, per questo non l'ho mai ancora pubblicato da 12 anni che lo conosco, dove in effetti c'è la stessa iconografia proprio di questo calcio. Ecco il collegamento, diciamo, eucaristia, battesimo, area presbiterale e così via. Bene, mi pare a questo punto di dover chiudere questo capitolo e faccio un po' di diapositive al limite, qualche parola, così andiamo avanti, se le vedano. Sì. Pensate che sull'arco trionfale di Santa Maria Maggiore, io una volta ho fatto un corso di 6 mesi, quindi come si può... ecco, guardate, è giù la città, è tutta quanta gemmata, ma è perché i padri dicono con molta chiarezza che deve essere tutto quanto gemmato, non per la preziosità del materiale, ma perché ha di fatto la preziosità della luce, e quindi tutto sommato un discorso strettamente teologico che si lega alla città celeste, e quindi le croci, anche quando sono senza le immagini, hanno sempre il pregnante teologico estremamente scatologico, per cui anche nella croce mostrata ieri al centro, proprio quel rosso, richiama estremamente questo fatto del sangue visto come segno di vittoria. La teologia giovannea, quando salirò sulla croce, attirerò tutti a me. E sarebbe interessante allora leggere le croci contemporanee o anche di qualche secolo più tardi, di carattere bizantino, con figurativa, per poter vedere un po' certi legami che non vengono mai a essere interrotti, ma che vivono un po' come sostanza naturale all'interno proprio di un pensiero, di una teologia, di una liturgia cristiana. Ora, andiamo avanti. Ecco, purtroppo no, scatta male la foto, sì. La macchina. No, avevo messo ecco, qualche esempio ecco, per far vedere come l'architettura incomincia un po' ad accentuarsi proprio a cogliere nel mondo bizantino questa cupola, anche se non l'hanno creato i bizantini, ma state attenti, poi è la teologia che la propria, la trasforma e crea dei connotati teologici e liturgici particolari. Avanti, le devi proiettare così. Guardate con le istituzioni, sempre. Per cui quando avete un'icona, non c'è l'iscrizione, state sicuri che è un fante. È una delle letture anche di fante, andiamo avanti. E non, quando non c'è un falso, è impossibile immaginarlo così, sì. Andiamo avanti, sì. Anche per gli angeli c'è tutta una... Ecco, Pietro, sì. E il motivo per cui il Pietro, per modo di dire, un Basilio, no? È sempre uguale. Cioè, creato lo schema, creato quel volto, si continuerà, perché la immagine, la parola deve essere sempre la medesima. All'artista la qualità di poter porgere in maniera adatta la stessa immagine. Andiamo avanti. Sì. Ecco, guardate come nello sfondo, proprio questo oro, dove c'è la estrema immaterialità, dove non si può localizzare né nel tempo e nel luogo, viene proiettata la immagine. Quindi è un'immagine atemporale ed è un'immagine che dà proprio il senso dell'eternità. Voi pensate anche l'effetto che doveva fare, perché adesso ci sono le luci, ma pensate con le candele. Una chiesa tutta quando a mosaico, si capisce benissimo, quelli che se potevano permettere, è il fenomeno delle candele. Voi non potete mai fermare l'oro. In continuazione c'è il movimento. E qui verrebbe proprio in mente quello che è scritto nella cappella arcivescovile a Ravenna: o la luce è nata qui, o fatta prigioniera qui libera regna. Quindi tutto sommato ecco che voi non potete mai fermare nulla, perché tutto è in movimento, e sono proprio canoni importanti per la comprensione proprio teologica, vorrei dire, e liturgica. perché dipende da che concetto si ha in mente di chiesa per poi fare la chiesa. Oggi che si parla tanto delle chiese moderne che non coincidono, non corrispondono, ma i teologi che idee hanno della chiesa? Perché dopo avvengono le proiezioni. Quindi la crisi non è dell'artista, la crisi è della chiesa, che ancora non riesce a identificarsi, ancora non riesce a cogliere di sé un'immagine per il 2000 così precisa di cui avvengono le proiezioni anche in piano di architettura e di decorazione, se ce ne fosse bisogno, perché non lo so, proprio in termini anche di preghiera e quindi di suggestione. Andiamo avanti, sì. È chiaro che il mosaico deve avere le mura, il movimento, le curve, eccetera, per... Ecco, andiamo avanti. Ecco, qui andiamo a Siviglia. E per Siviglia, del Concilio Tridentino, molte volte si hanno delle idee un po' particolari, probabilmente del Concilio Tridentino si conosce quello che noi abbiamo ricevuto alla fine del secolo scorso. Ma il Concilio Tridentino ha creato un'altra figura di santi, non quelli che fanno i miracoli, ma loro stessi sono dei miracoli in terra, proprio per l'attività che hanno svolto, l'attività sociale, sotto tutti gli aspetti, caritativa, istruzione. L'aspetto sociale è un elemento forte del Concilio Tridentino, non pensate che del Vaticano II, assolutamente. Ed ecco qui un esempio, a Siviglia, nell'ospitale della Caridad. Era una congrega che aveva come suo scopo quello di seppellire i morti. Devo dire con commozione, farò vedere anche una piccola diapositiva, che più tardi, proprio con l'arrivo del Magnara, un nobile che entra nella congregazione colpita proprio nella sua vita da certi fatti, ecco, praticamente ci vanno i nobili, insomma, era stato dato, era a un certo punto della storia, diventa proprio una confraternita per gente ricca. Ebbene, quest'anno io sono andato alla vigilia di Natale, il pomeriggio, e non sono potuto entrare nella cappella di questo ospitale, di questo ospizio, perché c'era un funerale. Lì nell'ospizio c'è gente anziani, gente malata di tutti i tipi, e c'erano queste persone nobili a fare proprio il rito del seppellimento. E sono andato anche il giorno di Natale, la mattina, alle 10. E c'era ancora gente che stava svolgendo, quindi ancora continua, sia pure in piccolo, sia pure dopo tanti secoli, quello che è un'attività, vorrei dire, di carattere proprio sociale. Ebbene, la decorazione della chiesa della Irmandad della Carità di Siviglia si introduce in un contesto di storia, di spiritualità nuova, capace di essere compresa nello spirito della cultura religiosa e morale del Seicento. Un secolo questo che affonda le sue radici di ricerca e di rinnovamento nel Concilio Tridentino, che diede nell'Europa occidentale un grande impulso alle arti. Dopo il Vaticano II io non l'ho visto. Scusate, io sono in pontificia, commissione d'arte sacra, quindi una provocazione la posso fare. Ancora non ho visto un vescovo che ha fatto una dichiarazione sull'arte oggi, come bisogna fare. E dopo un esame di 20 anni di come è andato il Concilio, non c'è neppure una parola. Soltanto al Concilio si è detto mia colpa che noi, rispetto agli artisti, che non li abbiamo capiti. E bastano queste cose? Guai se la messa fosse solamente all'introito, mia colpa. Non avremmo i sacramenti. Ho scelto la decorazione di un edificio di culto appartenente alla Spagna, perché mi sembra doveroso rivolgersi verso questa nazione che costituì uno dei pilastri della Controriforma, vivendo negli ideali e assicurando alla Chiesa una lunga serie di santi di carattere sociale e influenti nella vita della Chiesa nei secoli successivi. Sant'Ignazio di Loyola, San Francesco Saverio, Santa Teresa la Grande, San Paolo della Croce, San Giovanni di Dio, nato in Portogallo ma operando in Andalusia, aveva fondato proprio anche un ospizio in Granada, per citare solo alcuni nomi significativi. Il Seicento si caratterizza per uno stretto rapporto tra i movimenti letterari e le arti figurative, questo bisogna proprio tenerlo presente. C'è uno stretto rapporto tra la letteratura e le arti figurative. Per Siviglia c'è il circo proprio di Pacheco, Francesco Pacheco. La creazione artistica si nutre di contenuti didattici e sociali, esprimendo un contesto socio-culturale ben definito e chiaro. Una delle domande che la cultura dell'epoca poneva davanti allo spirito di ciascun uomo fin dalla giovane età era il senso della vita collocata di fronte alla ineluttabilità della morte. La morte, oggetto di meditazione e di riferimento di vita morale, disegnava la concretezza dell'operare in una visione dinamica della vita presente per acquisire quella celeste. Gli esercizi spirituali partivano dal fine e dal destino dell'uomo, per poi continuare a seconda della spiritualità offerta dai diversi ordini religiosi oppure dalle circostanze nelle quali uno veniva a trovarsi, in una logica di pianificazione, famosa l'opera del ben vivere per ben morire. La Chiesa della Carità di Siviglia deve la sua realizzazione a Miguel Magnara, di Centelo de Leta, un aristocratico siviliano entrato nella confraternita della Carità il 10 dicembre 1662. Un anno più tardi, il 27 dicembre 1663, e votato unanimemente fratello maggiore, incarico che conservò fino alla sua morte nel 1679. La vita del Magnara è segnata profondamente dalla tragedia della morte prematura della sua moglie, avvenuta presso Ronda nel 1661. La morte aveva già bussato alla porta della casa, prima con la morte dei due fratelli maggiori che lo videro di fatto erede di un'immensa fortuna, quindi con quella del padre avvenuta nel 1648. Il 1649 fu un anno terribile per Siviglia. Un'epidemia bubonica apparsa sulle coste orientali di Spagna nella primavera del 1648 raggiunse l'anno dopo la città, provocando, secondo calcoli più verosimili, un numero di morti stimabili tra i 50 e i 60.000 abitanti, sarebbe a dire quasi la metà della popolazione. La confraternita della Carità, che aveva una finalità, quella di seppellire i morti, trovò per questa circostanza uno sviluppo mai conosciuto precedentemente. Non solo la peste seguì nel 1651 la fame provocata dai campi abbandonati per l'epidemia. Tra il 1649 e il 1652 la Carità acquistò un'importanza straordinaria per la città e iniziò una riflessione sulla sua identità caritativa. 10 anni dopo, con l'arrivo del Magnara, la confraternita acquista una coscienza maggiore del suo servizio sociale allargato ad altre opere caritative. Ciò spiega il senso pregnante del cartiglio in pietra situato sopra l'architrave della facciata, sotto il balconcino, nel quale è scritto: «Questa è la casa del Signore, edificata firmemente, ben fondata sopra solida pietra, il cui fondamento è la carità di nostro Signore Gesù Cristo, casa dei poveri e sala del cielo». Questo è il Magnara bambino. Ecco, questo è Natale. Andiamo avanti. Purtroppo. Ecco, bene, bene. Ecco, questa è l'iscrizione in latino e in spagnolo come traduzione che si trova proprio sotto il balconcino dell'entrata. Io penso che questa iscrizione sia decisiva con molti altri elementi per capire il programma iconografico che c'è dentro, al di là che sia stato lo stesso Magnara a dare il programma all'interno. Non c'è dubbio che questo signore, il committente, in pratica, no, abbia dato lui il programma iconografico, ma è tutto vivibile in questa iscrizione. Ora, nel testo, l'unica parola scritta con caratteri eccezionalmente grandi è la carità. Lo possono notare. Inoltre, si stabilisce un rapporto stretto tra carità, chiesa, la casa dei poveri e la scala del cielo. Ecco un po' la chiave iconologica della interpretazione di quello che noi troveremo all'interno. Sono le tre parole chiavi, carità, poveri e scala del cielo, che offrono la ideologia di questo edificio di culto che trova nella decorazione della chiesa la più ampia semplificazione. L'ingresso, nello spirito della letteratura religiosa degli esercizi spirituali, si introduce con due eccezionali opere di Juan de Valdés Leal in Ictu Oculi, in un battito di ciglia, si trova sulla sinistra, quindi si muore così, un battito di ciglia, e Finis Gloriae Mundi, la fine della gloria del mondo, che sulla destra, e queste furono realizzate tra il 71 e il 72, dopo che vennero realizzate praticamente le opere di carità, le sette opere di carità, ma le vedremo un po'. Un tempo, e lo ricorda una lapide in pietra, era sepolto sulla soglia della porta centrale il Magnara, secondo i desideri testamentari, perché tutti lo pestassero, sono parole sue in traduzione, e per considerare il suo sporco corpo indegno di stare nel Tempio di Dio. Si tratta evidentemente di un esagerato riferimento alla sua vita prima di entrare nella confraternita e nello stesso tempo nell'eccessiva considerazione negativa che alcuni spiriti d'epoca, forse qualcuno anche fino a 30 anni fa, aveva di se stesso, un'indegnità che faceva temere esageratamente il giudizio di Dio. Ora, andiamo avanti come immagini. Sì. Allora, sì. È una maiolica che si trova sulla facciata, ci sono tante. Ora, la vecchia chiesa, quando fu acquistata, era un po' dedicata a San Giorgio, con il dragone vicino c'è il fiume, il Guadalquivir. E quindi anche qui, invece, che è Santiago di Compostela, ancora una lotta con il dragone. Quindi ci sono delle letture. Santiago di Compostela è praticamente colui che fa da pandan a San Michele Arcangelo sul Galgano, che lottano contro il dragone, sono i due grandi santuari dell'Europa e che si vengono un po' ad essere culturalmente presenti come un dato così naturale. Oltretutto qui a Siviglia non dimentichiamo i Mori. Ieri mi diceva appunto qui sacerdote che dopo il concilio tridentino nella sua diocesi il vescovo diceva che i sacerdoti non dovevano portare i baffi e così via. L'idea è proprio barbarorum, quindi senza dubbio nella interpretazione sarà cinorum, proprio perché aveva un po' questo connotato. Andiamo un po' avanti, andiamo avanti. E l'ospedale è accanto e con la iscrizione la Santa Caridad Domus Pauperum Scala Cieli, e nell'atrio all'interno ci sono affreschi, residui di affreschi ma ancora leggibili del 600, quindi d'epoca, dove vengono recuperati esattamente questi concetti, quindi la Santa Carità, la casa dei poveri, la scala del cielo. Andiamo avanti. Ecco. Questo è Juan Valdés Leal, un pittore fresco, un pittore energico, un pittore vivace, che fa da contrasto alle opere di carità che vengono fatte dal Murillo. È da dire che il Murillo, il 65, entra nella confraternita dopo che ha dovuto attendere un po', perché facevano anche delle indagini e non era nobile, ma nell'accettare c'è già un po' il motivo per cui viene accettato e perché dovrà dipingere. Ora, il Murillo, tutto sommato, o presenta le opere di carità sotto l'aspetto di questa serenità, ecco, all'inizio invece Juan Valdés di Magnara conosce anche le due estetiche, è in grado di poter leggere le capacità espressive dei due autori, mette proprio questa grossa realtà. Purtroppo la diapositiva non è molto bella e noi abbiamo proprio la morte con la falce, che è l'elemento più vivo e che in un batter d'occhio falcia il docco, il ricco, la situazione in cui viene a trovarsi l'uomo. Vediamo l'altra. Ecco, la bilancia, il giudizio, dove da una parte ci sono, se così possiamo dire, le opere di carità, la preghiera, eccetera, anche, e dall'altra, sulla sinistra, no, si trovano invece i vizi dell'uomo, raffigurati sotto immagini di animali. E lì, in effetti, nec plus nec minus, cioè la bilancia è proprio lì, giusto e giusto, bisogna farla pendere attraverso la vita caritativa. E purtroppo la diapositiva non descrive bene, ma nei cadaveri, di cui si vedono come vengono colpiti i vescovi, come vengono colpiti i regali, eccetera, c'è proprio la descrizione macabra di questi insetti che entrano e divorano proprio quello che poteva essere la nobiltà di un uomo. Ebbene, tutto sommato, ecco questo giudizio, la mano è proprio una mano che indica la presenza di Cristo perché è una mano forata. E quindi, come voi vedete, noi abbiamo all'ingresso quasi come se fosse un corso di esercizi spirituali, questa è la realtà della morte. Ebbene, come bisogna programmare la vita? Facendo le opere di carità. Almeno per questa, facendo del bene. E allora noi abbiamo 6 opere. Noi abbiamo Abramo e i 3 angeli, che significano accogliere i pellegrini. San Pietro, liberato dall'angelo, li sto mettendo in descrizione nell'aula, quindi nell'aula. Noi abbiamo allora San Pietro, liberato dall'angelo, redimere il prigioniero. Poi il ritorno del figlio al prodigo, vestire gli nudi. Di fronte attende il paralitico alla piscina, quindi attendere agli infermi. Cambia la dimensione dei quadri. Mentre questi sono piuttosto a dimensione equilibrata tra il verticale e l'orizzontale, gli ultimi 2 fatti da Murillo sono orizzontali e rappresentano Mosè che fa scaturire le acque alla roccia di Oreb e la moltiplicazione dei pani e dei pesci. Secondo me qui c'è anche l'idea di collegare subito con il presbiterio e difatti non poche iconografie, non pochi edifici avranno proprio questa iconografia nell'area presbiterale, lì dove si distribuisce il pane e l'eucaristia. Quindi in alto sì, noi li abbiamo come parte superiore, ma proprio vicino al presbiterio. Senza dubbio la posizione anche dei quadri non può essere dettata dal maniera, ma da un'epoca, da un clima dove certi fatti vengono. Quindi non si trova la descrizione delle opere di carità così come venivano pronunciate in ordine, ma c'è proprio una lettura, secondo me, di carattere ideologico. L'ultima opera di carità, nel fondo, è proprio un seppellimento di Cristo. La confraternita ha questo come primario, quindi seppellire Cristo, che fu terminata, pensate, più tardi, nel 1674, ed è disegnata da Bernardo Simon de Pineda e lo scultore è Pedro Roldán. Quindi l'ultima è nel fondo. Vedete allora che noi abbiamo già un programma iconografico del 600 dove si capisce l'aula, lì dove ci stanno i fedeli, che cosa devono fare. Poi c'è l'area presbiterale che sempre rimane nella iconografia occidentale, non con i collegamenti neoplatonici, ma sempre rimane come il luogo della Epifania, quindi per esplicare la Epifania che si viene a realizzare attraverso i sacramenti. Quindi viene rispettata questa concettualità e questo movimento. Ebbene, le prime 4 opere del Murillo che vi ho presentate, purtroppo la storia le ha fatto sparire. I francesi hanno un po' razziato sempre, quindi tutto sommato sono andate via. Attualmente, questo è inutile a raccontare tutti i particolari, attualmente l'Abramo e i 3 angeli si trova a Ottawa nella National Gallery, il San Pietro liberato dall'angelo si trova a Leningrado nell'Hermitage, il ritorno del figlio al prodigo a Washington nella National Gallery e poi a Londra lo stesso nella National Gallery. Che cosa è rimasto? Nel modo leggibile sono rimaste le 2 opere che abbiamo visto di Juan Valdés Leal, meraviglioso questo pittore che meriterebbe proprio di essere rivisitato sotto l'aspetto iconografico e iconologico, e poi viene praticamente, sono rimaste Mosè che fa scaturire le acque, andiamo avanti, ecco la linea orizzontale, no? Quasi che sono un accesso all'area presbiterale. Ecco, o meglio, questa è la moltiplicazione dei pani, inutile fare dei commenti di carattere estetico, questo è massa. E poi, ecco, Mosè che fa scaturire le acque, nonostante che qui c'è un riferimento dell'artista a un'opera anche di un genovese, ma questi non entrano nella nostra. Andiamo avanti, ed ecco l'altare maggiore, il seppellimento, ecco, andiamo avanti. Che cosa noi abbiamo adesso? Però a un certo momento dice Magnara, e qui la questione è vero, queste sono le opere di carità, ma io voglio che voi che siate nobili, non soltanto teoricamente che pagate, ma di persona le dovete fare le cose. E così porta come esempio proprio San Giovanni di Dio, il quale porta sull'omero proprio uno degli ammalati che incontra per strada, perché la regola della carità prescrive ai confratelli che per strada, se trovano, di portare loro stesso di persona, mettendolo sull'omero e portarlo proprio all'ospitale. E qui ecco che viene aiutato anche dall'angelo, quindi si entra nel concreto, le regole vengono veramente, entrano proprio nella storia del quotidiano. L'altra immagine, bene, è sempre del Murillo, queste vengono fatte dopo, e invece Santa Isabella d'Ungheria, Santa Elisabetta d'Ungheria, che praticamente cura i filosofi, no? Ebbene, anche in quest'opera c'è una lettura vera, dove a questi nobili si dice che persino la regina ha fatto questo, e quindi è una cosa così di carattere naturale. Mi pare che, siccome mancano 7 minuti alle 10:30, basta, perché poi questo no. Lasciamo stare. Grazie di questa lezione, che in certo qual modo è quella fondamentale di tutto il nostro incontro. Un universo di immagini e di idee. Non entro in ulteriore apprezzamento, perché vorrei subito aprire la discussione, anche accorciando un po' la nostra pausa, ma un quarto d'ora dobbiamo pur riservarcelo, sicché avremo 20 minuti per domande e colloquio che spero segua questo intervento. Venga più avanti, padre. Sempre nell'ordine di dare suggerimenti, è vero che la scultura è l'arte che è stata soprattutto, no, osteggiata. Ora, questo particolare potrebbe aiutarci a capire perché l'arte iconografica deve essere sempre bidimensionale. E la terza dimensione non è mai stata accettata, anzi ci sono stati sinodi della Chiesa russa durante l'umanesimo, il Rinascimento, che si sono pronunciati expressis verbis con tanto di condanna contro gli iconografi erano tentati di prendere la terza dimensione. La terza dimensione evidentemente trasforma la imago in re. Quindi anche se è imago, la fa diventare statua. E questo è il motivo di fondo per cui non è mai stata accettata la terza dimensione. Poi, sempre sul discorso del nome, tutto chiaro, limpido, e quindi del discorso della omonimia, mi permetto di suggerire le riflessioni importantissime per me, perché sono un filosofo, di San Nicefaro, che era un aristotelico e che approfondisce la nozione di immagine in chiave di relazione, e ha, diremmo così, delle riflessioni interessantissime esattamente sulla omonimia, che permette di fare l'aggancio tra la imago e l'archetipo. E quindi mi pare che quello sia sempre nell'ordine di così di suggerire. Quindi colore e disegno, e poi nome, d'accordo. Poi il rapporto parola-immagine, anche qui mi permetto di sottolineare l'aggancio che lei ha fatto, che condivido, tra il vedere e il piangere. E si sa che una, diremo così, delle grazie dello spirito più ambite dai monaci è il dono delle lacrime. Ecco, e si può piangere davanti all'immagine e non ascoltando la parola. E qui vorrei fare una piccola citazione di Tommaso, che a me piace moltissimo, come estetologo, il quale dice, Tommaso, che la vista e l'udito sono i sensi estetici per eccellenza, quia maxime de servientes rationi. E dei due, quello che è più estetico è la vista, secondo Tommaso, non l'udito. Poi l'immagine, è da sottolineare ancora che l'immagine non è soltanto un fatto percettivo che fa conoscere, ma l'immagine, e questo anche la psicologia moderna lo dimostra, basti pensare alla pubblicità e tutte quante alle tecniche dei persuasori occulti, l'immagine è anche forza. Movimento, no? E quindi sono concordo, quindi con il discorso quindi anche dell'oro, delle candele, mi pare. Poi mi permetterei ancora di fare un'altra piccola osservazione che lei non ha, mi sembra, detto. Nell'oro del Niceno II, cioè, praticamente tutto quello che dice Niceno II era già stato detto, ecco, in parte, come è stato detto anche ieri, certe cose le dicevano anche gli iconoclasti, e Niceno II praticamente ha giudicato la questione, ha dato torto agli iconoclasti, ha dato ragione agli iconoduli, però senza portare dei grandi argomenti dal punto di vista teologico. Il tardo antico che continua, come sì, esatto, ecco. Detto però c'è un argomento che alcuni considerano molto debole, no? Debole, che è l'argomento della tradizione. Però i padri dicono praticamente perché danno ragione agli iconoduli, perché loro sono, secondo la cattolica traditio ecclesiae, al singolare. Poi più avanti parlano di tradizione ecclesiastica. Quindi nell'oro è chiarissima nella mente dei padri la distinzione tra traditio cattolica ecclesiae, che è cattolica, unica, universale, e le tradizioni delle chiese locali. A me pare che per i teologi forse questo è utile approfondire, perché un vero pluralismo teologico, e mi chiedo venia, non dovrebbe fondarsi sulle filosofie, no? E parlo contro, a mio sfavore in questo caso, ma dovrebbe fondarsi sulla pluralità delle tradizioni ecclesiastiche delle chiese locali. Allora si capisce la lex orandi che regola la lex credendi. Ma il Tridentino ha essenzialmente fatto questo, gli studi moderni, sì, in effetti a livello di diocesi trovano un matrimonio tra territorio e, vorrei dire, arte. Sì. Poi mi ha tolto il piatto l'ultima parte, devo dirlo sinceramente, quando mi sono trovato davanti alla statua di Siviglia. Cioè, mi sono sentito fare come un vuoto, come si fanno nell'aereo, perché è vero tutto, cioè, accetto tutto quello che ha detto, tutto il commento che ha fatto, però io non riesco a dimenticare tutte le questioni sull'arte barocca, perché era arte barocca, è barocco. Il barocco, si sa, è nato dopo il Tridentino. E io ho questo dubbio, che non è solo di me, ma lo hanno espresso anche altri, citiamo un nome che forse può non essere tanto simpatico per noi italiani, ma certamente Carlo Argando scrive a chiare lettere nella sua storia dell'arte, e cioè il barocco ha come sottofondo una nozione della salvezza meritocratica, e cioè io mi salvo facendo le opere di carità corporale, e cioè per questo bisogna lavorare, bisogna darsi da fare, perché bisogna salvarsi l'anima. Mentre, allora io dico, se vogliamo parlare allora dell'arte sacra post-tridentina, per fare la giusta bilancia delle, lei ha detto non più non meno, dovremmo parlare allora dell'iconoclasmo della riforma. Iconoclasmo poi della riforma, che non è che annulli le immagini, basti citare un nome. Un nome solo che amo molto, ma non sono preparato per affrontare, Grunewald, il quale Grunewald era protestante, anche lui ha dipinto, però invece che esaltare le opere di misericordia, ha esaltato Cristo crocifisso. E qui voglio dire, allora c'è tutta anche qui un'altra mentalità, per cui ecco, va bene, sì, Sancta Caritas, Domus Pauperum, Scala Celi, ecco, è chiaro il discorso, cioè con le opere di misericordia, ecco, tutti salvi, e dopo se qualcuno più malizioso, faccio un altro nome, è stato anche mio professore, gli studi di arte sacra di Enrico Castelli, proprio sul barocco e i suoi convegni sulla beatificazione, qualcuno anche sospetta che tutta questa fantasmagoria del barocco non è altro che un contrappeso praticamente alla mancanza di libertà dal punto di vista intellettuale portata purtroppo da Trientino. Sì, in ogni modo per la carità di Siviglia bisogna localizzare Siviglia, no? Noi ci troviamo in un territorio dalle profondi anche radici arabe, basti andare a vedere che cos'è la Settimana Santa con 56 confraternite oggi e 112 processioni, quindi tutto sommato, come dicevo prima, l'arte barocca va studiato territorio per territorio, per cui se San Carlo Borromeo ha avuto la qui a Milano hanno avuto la possibilità di far venire artisti a fare copie di grandi opere, quindi creare tutta una scuola con Cerano, eccetera. Altre piccole diocesi invece si sono dovute limitare le incisioni alle stampe, riprese e così via, ma non c'è dubbio che c'è il problema anche della libertà in senso di contenuti, ma in senso però di estetica, in questo senso proprio quello che vuole Argan, le forme libere, eccetera. Se c'è stato un periodo di esplosione di forme e di richieste è proprio il Tridentino. Quindi se parliamo secondo le categorie mentali proprio arganiane, noi ci troviamo in un inverosimile esplosione proprio veramente, e allora che si parla di pennelli grassi, pennelli veloci, luci e così, tutto quello, quando andiamo nei contenuti, beh, però anche dopo il Niceno II, in fondo è la dottrina cattolica, ed è sempre il problema soteriologico, ognuno se lo risolve nell'epoca come vuole. Alla fine, se noi parliamo di arte in termini proprio di estetica, nel senso di storia materiale formale, io trovo che questo è un periodo splendido. Gli artisti hanno avuto veramente la massima libertà, cosa che non hanno avuto dopo il Concilio Niceno II. Se andiamo ai contenuti, ecco, rimane ancora il Niceno II. L'arte appartiene agli artisti, la maniera come se la faccia la dottrina, la fine, per il Concilio Tridentino II appartiene, quindi avviene tutto un certo tipo di discorso. È molto complesso, e poi bisogna vedere come li affrontiamo questi discorsi d'arte, perché hanno le diverse angolazioni: storia formale, storia estetica, storia figurativa, e anche, vorrei dire, alla fine, riflessioni di carattere cronologico, nelle quali entrano anche quelle strettamente filosofiche. C'è ancora una domanda? Con tutta la ricchezza di questa relazione che abbiamo sentito, certo che non si può trattare di tutti i temi interessanti, lascio a parte confesso i miei limiti, il barocco, vorrei soltanto dirigere l'attenzione sul fatto che è entrato di mezzo la riformazione protestante e tutto quello che artisticamente la riformazione, gli elementi dottrinali ha portato nell'iconografia cristiana, ha avuto anche gli effetti sul mondo cattolico. Dunque non si può parlare dell'uno senza dirigere l'attenzione all'altro. Vorrei limitarmi a dirigere la loro attenzione su tre punti che mi parevano molto interessanti e anche importantissimi. Il primo sarebbe quello di cui ha parlato dicendo che quello che abbiamo visto di tematica della Deisi sul vaso liturgico si trova anche in altri su altri attrezzi, non soltanto, ma per esempio in battisteri e anche sull'altare. Cioè, questo vuol dire un aspetto in quanto mi pare molto di alta rilevanza, che gli atti liturgici possono trovare la loro variazione anche nell'iconografia e viceversa, cioè che l'iconografia fa il suo effetto sull'arte, anche sugli oggetti artistici e viceversa. Questo bisogna dobbiamo tenere presente. Un secondo punto di vista, l'invenzione, cioè creazione, ha detto giustamente, non è dell'artista, ma dei padri della Chiesa. Il che vuol dire che l'immagine non è fa parte della dottrina, e non si può cancellare l'arte dalla vita della Chiesa e neanche dal dogma della Chiesa. I due sono intimamente connessi. E allora torno sulla sua premessa. Sei legnato giustamente che nessuno dei vescovi dal secondo Vaticano mai ha parlato una parola riguardo all'arte. Una mia amica, Marie-Madeleine Gauthier, che certamente la conosce, Marie-Madeleine Gauthier una volta in un suo articolo sulla liturgia e l'arte ha parlato, lo dico nelle sue parole francesi, l'iconoclasmo d'éclair. Che vuol dire l'iconoclasmo che una volta non è uscito dal popolo di Dio, ma dai rappresentanti della Chiesa stessa. E vorrei sottolineare fermamente la Chiesa, la religione e la Chiesa ha bisogno dell'arte e dell'arte figurativa. Ringrazio anche, ringrazio anche degli interventi e purtroppo insomma il tempo si tiramette tutti quanti, direi di fare adesso la pausa per riprendere esattamente alle 11, anche perché con licenza del professor Valenziano vorrei rubargli 10 minuti all'inizio, 10 minuti al massimo, per consentire alla signora Maria Grazia, autrice di queste belle immagini, di esporre un po' l'idea con cui lei le ha delineate e proiettate. Credo anche questo possa essere un contributo vivo alla nostra riflessione. Dunque alle 11 ricominciamo. Grazie. Cambiano il tono dai loro rudimentali paramenti metallici, rimettendo in luce i vivi colori, e aggiungeva che non bastava vedere l'icona, ma bisognava capirla, sentirla, dopo naturalmente essersi avvicinato ad una fede. Ed è ciò che è capitato a me. La potenza di quei colori straordinariamente vivi, la combinazione di dolore e gioia, due aspetti strettamente collegati tra loro in una sola identica idea religiosa, mi rivelarono tutta la misticità del mondo dell'icona. Un pittore romeno aggiungeva: non c'è Pasqua senza Settimana Santa. Non si può arrivare alla gioia della resurrezione se non attraverso la croce vivificante del Signore. Nonostante gli iconografi romeni rispettassero i canoni iconografici e il significato dei colori, che l'azzurro è segno di divinità, il rosa richiama la bellezza e la sapienza del creato, il giallo richiama la santità e il potere, il verde è il colore della vita, la mano benedicente è il segno dell'amore di Dio, il capo chino indica obbedienza al volere divino, la posizione retta dice al fedele che tutto è origine dal Padre, le tre stelle sul capo del manto della Madonna simboleggiano la verginità prima, durante e dopo il parto, il calice simboleggia è simbolo di comunione e lo spazio che si lascia sul retro dell'icona invita il fedele a partecipare. Bene, nonostante si vengano rispettati questi canoni, si nota una certa libertà di interpretazione nel soggetto dell'icona e ovviamente voi le avrete notate in questa icona, a differenza delle icone russe o delle icone ortodosse. Prima di accingermi a creare un'icona, se mi è consentita questa espressione, devo compiere un accurato studio dell'immagine sacra che voglio raffigurare e dopo l'abbozzo della figura centrale costruisco pezzo per pezzo l'icona, le quali nascono da una meditazione e da un raccoglimento. Un'icona può nascere da vecchie leggende, da poesie riguardanti soggetti sacri, dall'Antico e dal Nuovo Testamento. E qui vorrei richiamare l'attenzione di due icone in particolare, quella di San Andrea, che lasciava il dibattito a Pietro e gli argomenti agli altri. Colui non ebbe dubbi e la sua fu la prima fede. Si preoccupava soltanto di trovare il vino e il pane, precedendo gli altri, perché non sapeva quale sarebbe stata l'ultima cena. E l'altra icona che vi vorrei richiamare la vostra attenzione è proprio l'ultima cena. Maria è presente come madre orgogliosa dopo la Domenica delle Palme, come madre di Dio sapendo che doveva morire. Non avrà sicuramente capito le raccomandazioni di quel rito, fai questo in memoria di me, e forse non capendo neanche l'ordine, se prima di cena o dopo cena, ma questo non è importante. Lei doveva essere presente a quella sera, a quella cena di addio, e assicurarsi che tutti mangiassero e mangiassero bene. La tecnica che ho usato e che ho imparato nella scuola di Nicola in Transilvania è di dipingere sul retro del vetro. In questa maniera capovolgo le figure e si iniziano dalle cose che stanno più vicine e lentamente ci si allontana, in modo che i colori acquistino una luce tale che è dell'icona immagine. E un pittore della scuola di Nicola diceva: in questa maniera si riesce quasi a intrappolare la luce del sole tra il pennello e il colore. Il mondo delle icone è un mondo molto ampio e alla fine di maggio mi accingerò a un lungo viaggio di studio attraverso la Romania, Bulgaria, Unione Sovietica, dove raggiungerò poi mio marito che si trova attualmente in Giappone ad occupare la cattedra di studi internazionali all'Università di Osaka, e dove proprio in questi giorni a Nagasaki hanno scoperto delle favolose icone e le stanno restaurando, fatte sulla seta. Grazie. Ecco, ringrazio ancora la signora Maria Grazia di questo gentile dono che ci ha fatto e che, per conto mio, visibilmente mette a fuoco una serie di idee e di problemi, perché se confrontiamo le icone storiche, vero? E direi togate, no? Con le icone popolari e attuali, insomma, non ci vuole tanto a capire quanto c'è dentro di mezzo, no? Per una riflessione anche di possibilità, per una rimeditazione di tutto questo mondo di cose nell'oggi. Io mi rallegro e mi ringrazio della disponibilità immediata che l'artista ha avuto quando io le ho offerto a bruciapelo la possibilità di portarle a illuminare questa nostra sala. Credo che porteremo con noi il buon ricordo di queste immagini. Grazie.